Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Benvenuti a Ethno Chic, buona serata qui su Radio Città del Capo. Salute Azul. Ciao, buonasera. Qui Vladimiro. Oggi mercoledì 6 dicembre, di nuovo in diretta. E stasera parleremo, come avete sentito, di Fado. Abbiamo sentito Anna Moura. E abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi Silvia Cavalieri, che è un'esperta di musica e di cultura, di letteratura portoghese e lusofona in generale, che è venuta appunto con noi per accompagnarci in questo viaggio attraverso il Fado. Ciao Silvia, tutte, benvenuta. Grazie mille per avermi chiamata. Salve, abbiamo iniziato con questo brano di Anna Moura, che come si chiamava? Mapa do Coração. Mapa do Coração, sì. Infatti è anche per il titolo che ho pensato di cominciare da questo brano, perché già dal titolo ci racconta un po' quello che il Fado cerca di fare, insomma, di dare attraverso la voce, gli strumenti e le parole anche, ma non soltanto, una mappa del cuore umano, dice, fatto di tristezza, di allegria e di tantissime contraddizioni che le parole da sole non riescono a dire e che il Fado invece proprio intrinsecamente contiene. E il simbolo del Fado è un po' Amalia Rodriguez, no? Un po' quella che è stata un po' la cantante che ha fatto conoscere anche a livello internazionale questa musica, giusto? E mi pare che la prossima canzone che andiamo a sentire è proprio un suo fado, giusto? Sì, è il Fado Portuguese, che di nuovo ci racconta un pochino come il fado nasce. In questa canzone si vede come questo marinaio che guarda all'orizzonte senta questo sentimento che in realtà non riesce a prendere parola e diventa musica, voce e fado. Bene, ascoltiamoci questo fado portoghese di Amália Rodrigues. Espanha, areias de Portugal, olhar o céu Etno Chic, serata dedicata al Fado, con ospite Silvia Cavalieri. Questa era Amalia Rodriguez, giusto Silvia? Sì, era Amalia Rodriguez nel suo Fado Portuguese, che appunto abbiamo scelto proprio perché in qualche modo ci dà le coordinate del Fado, anche se con Amalia il Fado è già qualcosa di diverso da quello che il Fado era quando è nato, anche se gli albori del Fado non sono così chiari per nessuno in realtà. Però in questo brano c'è dentro moltissimo di quello che il Fado era anche prima di Amalia, quindi questo Portogallo proiettato verso il mare, quindi verso la malinconia, la saudade che i marinai sempre provano allontanandosi dalla loro terra, che in qualche modo è una specie di resto dell'oceano che si è tutto proiettato verso il mare per evitare di essere fagocitato dalla sempre temuta vicina Spagna. Spagna che è anche nominata in questa canzone dal marinaio che vede appunto le spiagge della Spagna, le terre portoghesi, e mi piaceva proprio perché qualcuno nel Fado vede una triplice radice. Una radice in parte spagnola e in parte brasiliana. C'è questo studioso che ha scritto una delle opere insomma più corpose sul Fado, che si chiama José Ramos Tinhurão, brasiliano, che proprio dice il Fado deriva come danza, perché all'inizio il Fado era una danza, dal fandango spagnolo, dell'Andalusia in particolare, e dalla fofa e dall'undu brasiliani. Quindi questa triplice radice in qualche modo c'è tutta in questa canzone, dove il marinaio arriva dall'oceano, quindi dall'altra parte dell'Atlantico, e vede le terre che e infatti che sempre sognava. Ci sono anche dei fado corrido, ci sono delle musiche appunto anche nella musica regionale che un po' hanno questo nome e che sicuramente hanno questo retaggio insomma di danza. Con il prossimo brano? Di danza sì, più ritmata, addirittura il Fado Batido pare sia proprio nato a Lisbona, perché comunque c'era uno scambio anche a livello umano, c'erano moltissimi neri che appunto nel triangolo Africa, Brasile, Lisbona, che c'erano dei importanti scambi. Certo, per cui il Fado Batido. E il prossimo brano? Il prossimo brano parla appunto di Brasile, si chiama Mai Preta, di qua interpretato da Maria da Conceição, è un'aria resa famosa da Amalia Rodriguez, ma con altre parole, perché Salazar vietò di parlare di tematiche così scottanti come il razzismo, lo sfruttamento dei neri, che invece c'è in Mai Preta, e Maria da Conceição, un fado brasiliano d'origine. Bene, andiamo a ascoltarlo. Thank you. Etnoshiki, Radio Città del Capo 96.2 o 94.7. Ricordo che potete sentirci anche in stream. E diceva giustamente Azul che insomma la pronuncia sembrava quasi un portoghese un po' differente, quasi brasiliano, diceva. Sì, in quanto a Shibata batia no seu amor, mai preta embalava o figlio branco do Senhor. Questo è un fado a tema brasiliano che racconta, proprio pare sia stato evocato da un quadro che questo Piratini vedeva in casa sua, una casa grande con accanto le sanzalas, dei neri, quindi il paesaggio è sicuramente, il paesaggio sociale umano è quello brasiliano, un quadro in cui c'era una donna nera che allattava un bambino bianco. E infatti in questa scena, mentre la frusta batteva sul suo amore, continuava a colpire il suo amore, Mai Preta, la madre nera, allattava il figlio bianco del Signore. Questi sono i versi che Amália non poté cantare, perché Salazar non voleva, durante il regime fascista, che si parlasse di questo, e quindi sostituì queste parole con il famosissimo Barco Negro, reso poi famoso dal film Gli Amanti del Tago, che è una poesia scritta da David Mourão Ferreira. Amália usava mettere poesie di autori famosi, viventi o addirittura del cinquecenteschi come Camões nel fado, ci fu una trasformazione enorme. Però qui ancora le tematiche sociali erano in qualche modo presenti prima della rivoluzione novecentesca, che per qualcuno, come appunto l'autore che citavo prima, è stata un'involuzione, un tradimento del fado rispetto alle sue origini, che erano origini invece, origini marginali, in cui comunque quelli che venivano a galla erano i drammi dei margini. E si sente anche nella sonorità ritmica, è una sonorità sicuramente più, come dire, quasi più da musica popolare, quasi da ritmi di danza o di canti di lavoro, con sicuramente un contesto meno cartoninesco magari della, sì, il fado all'inizio era danzato. I canti vengono pian piano e sono degli intermezzi tra una danza e l'altra sostanzialmente all'inizio, ed erano danze che erano fatte inizialmente soprattutto dai neri, poi insomma con il meticciato che comunque c'era sia nelle città brasiliane, a Rio, a Salvador e nell'omologa a Lisbona, perché erano molto simili proprio dal punto di vista delle relazioni sociali e delle relazioni umane, viene riprodotto anche a Lisbona. E il prossimo brano? Ecco, il prossimo brano ci parla di un fadista diverso da quelli rappresentati da Amália e da tutte le fadistas e i fadistas che conosciamo oggi, che sentiamo oggi, perché è Alfredo Marceneiro, il Carlos Gardel di Lisbona, è stato soprannominato. E Alfredo Marceneiro, Marceneiro vuol dire il falegname, quindi Alfredo Duarte si chiamava in realtà, continuò tutta la vita a cantare il fado, certo, ma a fare il falegname. E una delle cose che dice, che ci fanno capire un po' la doppia natura del fado, il fado vadio, il fado cantato da chi non può fare a meno di cantarlo, ma che non può mai diventare un professionista perché andrebbe contro la natura del fado, e il fado invece che a un certo punto abbandona le taverne e va per i teatri, per le scene, diventa un affare di mercato, insomma, che in qualche modo lo critica. Addirittura Marceneiro disse: il mio maggior dispiacere in relazione al fado fu registrare dischi. I dischi videro il fado industrializzato. Il fado non si deve vendere. Io canto perché la mia anima lo ordina, canto come se pregassi. Non mi piace cantare per le macchine, voglio vedere il pubblico, analizzare le sue reazioni, vedere se gli piace. Quindi il fatto di chiamarsi Marceneiro, e questa canzone, questo fado si chiama proprio Un Marceneiro, dice: io sono un Marceneiro di fado, cioè di destino e di mestiere, e questo dice che sono una persona onesta, perché io canto il fado ma il mio lavoro è un altro, quindi questo è... E andiamo a ascoltarlo, sempre qui su Etnoshik. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar fado até à morte. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar o fado até à morte. Orgulho me de ser em toda a parte português e fadista verdadeiro. Eu que me chamo Alfredo Mães Duarte, sou para toda a gente um marceneiro. Eu que me chamo Alfredo Mães Duarte, sou para toda a gente um marceneiro. Este apelido em mim que pouco vai, da minha honestidade é forte indício. Sou marceneiro sim, porque trabalho, marceneiro no fado e no ofício. Sou marceneiro sim, porque trabalho, marceneiro no fado e no ofício. Ao fado consagrei a vida inteira, e há muito por direito de conquista. Sou fadista, mas à minha maneira, à maneira melhor de ser fadista. Sou fadista, mas à minha maneira, à maneira melhor de ser fadista. E se alguém duvidar, cravo uma espada, sem dó numa guitarra para crer. A alma da guitarra mutilada, dentro da minha alma há de gemer. A alma da guitarra mutilada, dentro da minha alma há de gemer. Etno Chic, Radio Città del Capo, 94.7, 96.250 in diretta, e ci stiamo occupando questa sera del fado con Silvia Cavalieri. Prossimo brano, visto che è un fado anarchista di un certo John Black. Sì, ho fatto fatica a trovarlo, ma ci tenevo a portare anche un fado che testimoniasse l'epoca anteriore al salazarismo, che ricordo è il regime fascista che viene instaurato insomma a partire dalla fine degli anni 20 a Lisbona, che si conclude soltanto nel 74 con la rivoluzione dei garofani, e un regime con cui il fado è stato accusato a lungo di essere colluso. Si parlava del regime delle tre F: fado, football e Fatima, fado, calcio e Fatima, quindi questa religiosità insomma intinta di superstizione, di apparenza. E il fado sicuramente ha visto una trasformazione, una professionalizzazione che era anche una forma di controllo dei suoi testi e anche delle persone che lo cantavano durante insomma, questi quasi 50 anni, però prima era anche qualcos'altro. Nonostante di questi fadush anarchici, comunisti, socialisti, sia veramente rimasto pochissimo, è stata fatta una vera e propria damnatio memoriae. Però ho trovato questo di João Black, un personaggio che non era inglese in realtà, ma aveva preso il cognome del benefattore che gli aveva permesso di studiare. Lui, il suo papà era di Almada, quindi la zona operaia che c'è di fronte a Lisbona, e lui aveva studiato grazie ai finanziamenti di questo signore, aveva tenuto il suo cognome, Alexander Black si chiamava. E dedica questo fado all'anarchia, quello che era il suo ideale. Lui andava a parlare con gli operai. C'è una testimonianza bella che ho trovato di uno scrittore, Carlo Schlores, che racconta proprio di averlo incontrato che era un bambino. Lui andava a fare discorsi agli operai, quindi discorsi militanti, e intanto cantava i suoi testi per spiegare ciò in cui lui credeva attraverso la musica. E tutto questo in che anni accadeva? Questo era negli anni 40, all'inizio degli anni 40, quindi già in piena dittatura. Sì, di Salazar, in piena dittatura lui faceva ancora questo. E manca la prima quartina, che però direbbe: scienza umanitaria, un simbolo dell'altruismo, ha come fine condannare Dio, la patria e il militarismo. Lui diceva queste cose negli anni del salazarismo, e diceva però la conclusione non è positiva, perché diceva: l'umanità invece firma la sua condanna vendendosi al militarismo, alla patria, al mito della patria e della famiglia. Questo è il fado anarchico. Adesso andiamo a sentirlo. Em um mundo há de assistir aos pobres livres do jogo, espezinharem o verdugo da burguesia a surgir e depois, quando existir, o ideal que vem dar de esplendor e bem-estar, incitar patriotismo, a miséria. O anarquismo tem por base condenar. Mas o povo sossegado esfacela-se sobre a tortura quando o seu mal tinha cura. O ideal desejado quer viver materializado nas garras do servilismo, vai elegando o abismo à fanática humanidade, pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo, pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo. Documento veramente raro. Come è arrivato questo a noi? Non era un disco chiaramente registrato da qualche compagnia discografica. No, era proprio un brano di una canzone più lunga che ho trovato in rete, però veramente anche trovare notizie su João Black è stato difficilissimo. C'era appunto questa testimonianza, in realtà questo ricordo di questo scrittore da bambino, ma in generale le notizie sono veramente rare e non si trova nulla. E anche di questi Fadus pare che, insomma, subito dopo la rivoluzione del 17 ci fossero stati dei funzionari russi in visita a Lisbona e pare fossero stati accolti con dei Fadus a tono, insomma, però è difficile davvero trovarli. Se ne parla Rui Vieira Neri nel suo libro, però non ci sono. Sì, mi ricordo quel libro. Sì. Non si sente. Sì, questo che libro parla è tradotto in italiano, sì. Tra l'altro quello di Neri, che ha una teoria ben diversa da quella invece del brasiliano che citavo prima, è un libro, sì, un po' ricordo. Posteriore. Per lui il fado migliora, allontanandosi in qualche modo, professionalizzandosi, avvicinandosi quindi a una poesia più alta e a voci sicuramente più professionali, diciamo, diventa qualcosa di esportabile in tutto il mondo, e questa è considerata un'evoluzione come, diciamo, il pensiero comune normalmente crede, mentre però c'è anche chi sente questo allontanarsi dalle origini come un tradimento. E devo dire che girando per le Baiucas di Lisbona e ascoltando il Fado Vadius, trovi il Fado Vadio, il Fado Vagabondo, quindi fatto non professionisti, trovi ancora delle persone che pensano questo, che dicono: io non potrei mai farmi pagare per cantare il Fado. Quindi proprio una musica proprio tradizionale, in senso... Sì, è urbana, lisbonita, però con dentro veramente elementi appunto brasiliani, spagnoli e ovviamente africani, perché attraverso il Brasile, ma non poi soltanto, perché arrivavano anche direttamente dall'Africa. In questa Lisbona appunto in cui São Paulo e Salvador si rispecchiavano, c'era proprio un tipo di amministrazione, di relazioni tra le persone molto molto simile, per cui era molto facile che ciò che arrivava dal Brasile venisse accolto, soprattutto in questi margini, in questi bassi fondi. Il prossimo ascolto? Il prossimo ascolto Erminia Silvia, Silva, Vodar de Beber Alegria, che è un fado corrido, quindi un fado allegro, diciamo, veloce, che racconta della Mariquinhas, che è un personaggio che appunto Alfredo Marceneiro aveva portato in auge, un personaggio di cui non si trovano molte notizie, ma un personaggio buffo del mondo variegato e così, diciamo, anche moralmente un po' traballante della Lisbona dei Barros. Ed è questa donna enorme, la cui insomma identità sessuale non è chiara, perché Marika sarebbe qualcuno di effeminato, che gestisce una casa di appuntamenti, un luogo molto allegro che nel quartiere ci si ricorda con molta nostalgia. Godard deve bere allegria. Erminia Silva, tra l'altro, è un interprete veramente divertente, che enfatizza il lato il più possibile comico, che stranamente riesce a uscire anche dal fado e inframezza le strofe cantate con delle parti recitate, per poi interagire col chitarrista. Armando lo chiama in continuazione, valorizzando anche moltissimo questa chitarra portoghese, che sentite la sonorità tipica del fado. Também podia ser e aí é hora. Lembras-te quando a gente fazia estas paródias? Ela fazia um marinheiro americano, depois voltámos. Eu fiz muitos marinheiros americanos. Ela fez um marinheiro americano e eu fiz um marujo português. Um dueto. Foi um sucesso. Anda, Armando. Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recantada mariquinhas. E quando vê meu espanto, olha e vejo por encanto, outra vez lá na janela as tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio a porta abrir e a sorrir era mesmo a mariquinhas. Ai, a mariquinhas está uma beleza, está tão linda a mariquinhas. Ai, que linda, ai, que linda, ai, que beleza. Está mais gordinha, pesa 450 quilos. Não é brincadeira nenhuma, que é mais que o dobro. Mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jaquinzinhos de cabeça quando eu apareci. Ela assim que me viu olhar em mim, né pá? Ela sabe que eu gosto de carapaus fritos. Coitadinha, até fez ternura que ela tinha lá o arranjinho dela. Jaquinzinhos a 320 paus o quilo. Ela tinha lá 5 gramas. Era para ela e para o Charma, para o chat-se. Depois apareceu esta intrusa, olha, foi a conta. O cavalo é com os jaquinzinhos, é cabecinha, rabinho e tudo, vai tudo na enxurrada. Anda, Armando. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era vingrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas às bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas. Janelas com tabuinhas, bem feita. Lá na rua as amiguinhas ficaram todas danadas. E um peso de 400 quilos em cada ponta das tabuinhas, que era para elas não poderem deitar para lá os mirones. Aquilo é um resto de chão. Antigamente era só lá chegar e aquilo era canja. Agora quem é que pode aguentar 800 quilos? Ela sabia de lembrar, hein? Mas é uma belíssima rapariga. Anda, Armando. Ah, já tiraram os cachilhos às voltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores, pinguiço dos penhores, fumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso das igrejas para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua concha feita à mão, ai, dobroada com borlinhas. Ela é muito aprendada. Estava a fazer uma colcha toda em carochê, diz que era para me oferecer a mim, para eu estrear na noite de Natal. E tens que apor, e tens que apor, e tens que apor. Tem que apor o quê, mulher? Tens que apor a colcha na cama na noite. Está bem, pronto, acabou-se. Faltavam 3 dias para o Natal e a colcha ainda estava em meio. E ela, coitadinha, ali a fuçanga, a fuçanga, a fuçanga. Oh, mulher, para lá com a costura. Quando entram as visitas, cerimónia, assim como eu, para-se logo com tudo. Nós éramos aprendizes de alfaiate quando éramos miúdas. É claro que eu não percebia nada daquilo, nem queria eu. Eu andava a apanhar alfinetes. Agora ela não, ela até já sabia gornecer, como ela dizia. Hoje é uma boa costureira de alfaiate e eu sou vedeta. De maneira que ela faz assim um bocadinho de cerimónia comigo e então respondeu: Oh filha, eu por acaso até nem percebo desses protocóis. Você não percebe destes protoquê? Então aprenda, que eu é que sei. Cultura é comigo. Sou eu e o Pedro Homem de Mel, sou manada. Uma bandida daquelas da minha criação a dizer protocóis. Mas em que rimance, em que rimance, é que ela aprendeu os protocóis. Não foi na crónica feminina, com certeza. Eu ali cheia de punhos de renda, e ela pimba protocóis. Anda, Armando. A concha é linda, é toda aos quadrados de metro e meio, assim com rosinhas todas em relevo, assim com cachos de uvas ferrais pendurados assim à volta, uma fundura toda em boa de rose, é uma beleza, pesa 50 quilos. Aquilo não é sonho, é pesadelo. Agora eu para a escada abaixo com 50 mangustos às costas, eu disse escada... Oh, Irene, eu disse escada abaixo. Disse, não é, é um rechão. Ah, lá está tudo, tudo, tudo tão cheio. E a guitarra enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um boniquinho de barro bem bonito e pintadinho com folhinhas. E eu fiquei tão contente que ficamos calmamente a beber até de manhã. Ai, ai, uma macieirazinha. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a mariquinha. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a mariquinha. Muitos kiss-me's, muitos beijinhos, muitos abraços para todos. Obrigada. Obrigada. Le 10:08, siamo su Etno Chic, su Radio Città del Capo, e muitos abraços para todos. È particolare questa musica perché veramente il fado porta un po' la tristezza, a saudades, e questa ci ha fatto anche ridere mentre si ascoltava perché era veramente divertente. È un racconto su questa casa particolare, diciamo sì, così. E poi sì, poi la musica aveva qualcosa di piuttosto familiare. Sì, è questo fado corrido che in realtà è stato utilizzato per moltissime parole diverse, molte delle quali avevano a che fare proprio con la Mariquinhas, le storie della Mariquinhas. C'era la casa da Mariquinhas, che appunto Alfredo Marceneiro, il falegname che abbiamo sentito prima, interpretava, e della quale aveva proprio costruito un modellino con tutti i particolari in legno per far vedere come era fatta questa casa. Poi c'è Vodar de Beber Allegria, che racconta della casa quando è nel suo fulgore, poi invece c'è la versione di Amalia Rodriguez, Vodar de Beber Ador, che è il verso poi finale anche qua, darò da bere al dolore, non più all'allegria, che racconta invece della chiusura. Della chiusura di questa casa particolare che diventa un banco dei pegni, mi pare. E poi noi la conosciamo anche per la versione in italiano traslata a Genova, quindi non solo tradotta ma anche traslata nella Genova dei Carruggi, interpretata sempre da Amalia Rodriguez, però in italiano La casa in via del campo dei primi anni 70. E invece col prossimo Fado dos Estudiantes? Ecco, il Fado dos Estudiantes, vediamo Vasco Santana, che è un famoso attore portoghese, e questo brano lo interpreta nella Canção de Lisboa, che è un film del 1933 che raccoglie diverse vedette dell'epoca. Un film di José Cotinelli Telmo, che era un architetto, infatti c'è un'attenzione per gli spazi notevole in questo film, e c'è un giovanissimo Manuel de Oliveira, che è il regista morto ultracentenario 2 anni fa, il famoso regista portoghese, li interpreta l'amico del protagonista. Ho scelto questo fado perché, nonostante in realtà sia un fado fatto a Lisbona, nell'Avenida Almirante Rei, nella Cervejaria Portugalia, in realtà il Fado do Estudante ci permette di parlare anche di un'altra varietà del fado cosiddetto evoluto, nella sua trasformazione, diciamo, dopo essersi ripulito di tutto ciò che di più genuino aveva assorbito nei margini, ed è il fado di Coimbra, che è un fado appunto studentesco, cantato soltanto da uomini, interpretato agli inizi anche dallo stesso José Afonso, che non è stato un fadista, però il fado lo ha fatto. Sì. Niente, sentiamo Vasco Santana. Andiamo a sentirlo. Sì. Ora, agora vamos então ouvir umas variações de fado em ré menor, o distintíssimo guitarrista, o nosso amigo Polidori, que é uma coisa que, desculpem, acho que não tenho a paciência de novo. Que negra sina ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Nesse fugaz tempo de amor que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, só para amar vivia eu, sem me ralar e tudo mais eram cantigas. Nenhuma delas me prendeu, deixá-las eu era canja, até o dia em que apareceu essa traidora da franja. Sempre a tenir, sem um tostão, bati na abrir por um rasgão, botas a rir um bengalão e ar descarado, a vadear com outros mais e a dançar para os arraiais, para namorar, beber, folgar, cantar fado. Olho agora com saudade os calhamaços que eu lia, os professores da faculdade e a mesa da anatomia. E volto a mim recordações que não têm fim dessas lições, frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava e se eu estudasse, onde ainda estava nessa classe, e a que eu faltava 7 dias por semana. O fado é toda a minha fé, embala, encanta e inebria, pois chega a ser bonito até na radiotelefonia. Quando é tocado com calor, bem atirado e a rigor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção, faz desvibrar, e eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. Siamo sempre su Etno Chic, Radio Città del Capo, in diretta. Silvia, il prossimo brano. Il prossimo brano è Saudades da Julia Mendes nella versione di Maria da Nazaré, quindi una delle versioni più vecchie che abbiamo, anche se è un brano questo che è stato interpretato anche in anni recenti da molte fadistas, la più nota è Mafalda Arnaud. Julia Mendes era un'attrice del teatro da rivista, che è il teatro musicale che assorbe il fado nel momento in cui il fado, diciamo, abbandona i barrios in cui, diciamo, spontaneamente cresceva. E Julia Mendes era un'attrice che però da bambina era veramente povera e cantava vicino al padre, che chiedeva l'elemosina, e pare avesse questa voce bellissima con una dizione perfetta. E questo accade in realtà nel momento in cui il fado diventa un business, diciamo un negozio, dicono i portoghesi, che abbiamo questi talent scout, potremmo dire, che si aggirano per i bairros in cerca di talenti, come la stessa Amália Rodrigues era una venditrice di frutta nei quartieri di Lisbona. Julia Mendes divenne famosa rappresentando la Severa. La Severa è il mito primigenio del fado, era una prostituta, lei sì, negli anni, visse tra gli anni 20 e gli anni 40 dell'Ottocento, una prostituta che ebbe una storia d'amore con questo conte, il conte Duvimioso, conte che era famoso proprio per la sua prestanza e la sua forza in queste lotte che ci furono in Portogallo tra gli assolutisti e i liberali, subito dopo il ritorno della corte portoghese dal Brasile, che fu un momento di particolare intensità nello scambio proprio anche a livello musicale, questo della corte che tornò con 4.000 e passa persone da Rio de Janeiro, dove era stata per 13 anni. Andiamo a ascoltarla. Sentiamo. trocas a noite pelo fado. Pelo fado, esse malandro vadio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado. Leva o teu cheiro traçado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite na alma. Tem calma, ainda te perdes para aí. Oh, Júlia, se estás de novo vencida, não queiras gostar da vida, que ela não gosta de ti. Não fales, coração, tu és um tonto, sem razão. Viver só por se querer não chega a nada. Aceito a decisão que os povos trazem ao nascer. Todos nós temos de viver de hora marcada. Se Deus me deu a voz, que é de eu fazer se não cantar o fado? E eu a sós queremos chorar. Eu fujo, não sei bem porquê, do mundo ou de ninguém. Talvez de mim, mas ouço alguém dizer-me assim. Oh, Júlia, trocas a noite pelo fado, esse malandro vadio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado. Leva o teu chale traçado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite na alma. Tem calma, ainda te perdes para aí. Oh, Júlia, se estás de novo vencida, não queiras gostar da vida, que ela não gosta de ti. Andas com a noite na alma. Tem calma, ainda te perdes para aí. Oh, Júlia, se estás de novo vencida, não queiras gostar da vida, que ela não gosta de ti. Eccoci qua, di nuovo. E questa storia quasi da ballata, da blues, di fuorilegge, di canto narrativo portoghese, ci ha accompagnato ancora un'atmosfera ancora un po' differente, eh? E quindi abbiamo un po' visto tutte queste varie atmosfere del fado, insomma, anche al di là dello stereotipo, insomma. Quindi abbiamo potuto vedere come il fado vuol dire tante volti, giusto? Tanti volti. Sì, c'è tantissimo dentro e ognuno rivendica la sua maniera, come in qualche modo possibile dentro al fado, che è un recipiente molto più capiente di quello che si è voluto far credere. Io adesso vorrei ascoltare, anche se di lei veramente ascolterei mille brani, però questa voce meravigliosa che è Cristina Branco, ed è un esempio questo. Fado supplica, si non chuvesse tanto, della poesia che entra nel fado. Queste sono, in particolare, sono versi di Manuela Freitas. E andiamo a concludere. Se tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar de frente, se não fosse já serem estas horas, não fosse a minha casa estar de frente, se não fosse já serem estas horas. Cristina Bianco, andiamo verso la chiusura. Ringraziamo Silvia Cavalieri che è intervenuta. Grazie. Io sono Vladimiro. Ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21.30 qui su Radio Città del Capo 94.7 96.250. E Silvia, qual è l'ultimo ascolto che... Sì, vi salutiamo con un brano di Marisa, quindi un'interprete contemporanea notissima di fado, una fadista della Moraria, però con origini da parte della nonna mozambicane, quindi a riprova di come nel fado ci sia veramente un confluire di sentire. Ed è una poesia di Fernando Pessoa, questa, Ha una musica du povo, cioè una musica del popolo, che è proprio il fado, no? Bene. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte, ciao. Do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado, ouvindo a sorrir seria se desejar fosse ser uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro